Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartone animati. No, don't do that. You blow a hole in your mountain, all you're gonna hit is a wall. Step aside, Gigantor. We got us a railroad to build. We're blowing a hole in that thing. Okay, first of all, enough with the Gigantor giant stuff, okay? I'm just trying to close up shop. We're gonna blow it anyway. And a three! Yeah, poof. Wow. seconda parte del volume numero 4 di Eclettica. Ce ne sono 5 ogni settimana, 5 volumi di un'ora ciascuno, in onda al lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì fra le 19 e le 20, e poi disponibili in podcasting. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni, che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. Esiste il podcasting, esiste la lista nera, ovvero sia la possibilità di ricevere la playlist della trasmissione, e basta. Direi che non ho nient'altro da dirvi, se non annunciarvi che vi siete appena ascoltati Time, Space, Repeat da Londra con The End of the World, e prima ancora Electric President con Dotted Lines, e sta per arrivare Baby D, un artista che ha girato il mondo suonando in diverse situazioni con diversi artisti. Direi che il nome che io più noto è quello di Anthony and the Johnson, e Baby D che arriva nel 2008 con un album a suo nome per Drag City. Noi ci ascoltiamo Teeth Are the Only Bones That Show. Oh, goes back in the hole, back in the hole again. Back in the hole again, back in the hole. Back in the hole again. Back in the hole. Mi chiamo Katie H. Ho 31 anni e da più di 11 anni sono un assistente. Sembra un periodo piuttosto lungo, lo so, ma a dire il vero, loro vogliono che continui per altri 8 mesi, fino alla fine di dicembre. A quel punto saranno trascorsi quasi esattamente 12 anni. Adesso mi rendo conto che il fatto che io sia rimasta per tutto questo tempo non significa necessariamente che loro abbiano grande stima di me. Ci sono ottime assistenti a cui è stato chiesto di abbandonare dopo appena 2 o 3 anni. E poi me ne viene in mente almeno una che ha operato per oltre 14, malgrado fosse un'assoluta nullità. Quindi non ho nessuna intenzione di darmi delle arie. Questo era l'incipit di Non lasciarmi, di Kazuo Ishiguro. Switches are insane. My hands up. Now listen, guys, what is your problem, huh? Why can't you just get along? Look, we're men, we fight, okay? That's what we do. Kind of how we pass the time. You're like a giant, a freak, if you will. We can't expect you to understand that. Failure. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 13, volume numero 4. Indice: Don Turbolento, La Cruz, Foot Village, Seu, The Big Sleep, Slow Down Tallahassee, Electric President, Time Space Repeat, Baby D, The Warlocks, To Kill a Petty Bourgeoisie. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.